Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo una storia molto americana, una storia che non è ancora finita, anzi, ahimè, potrebbe essere una storia che sta partendo, almeno per il mondo, perché il nostro uomo proprio in questi mesi sta partecipando a una sfida politica il cui esito pesa e peserà ovunque, perché il terreno su cui si gioca la sfida sono gli Stati Uniti e quindi di conseguenza il mondo, e l'obiettivo è conquistare la Casa Bianca diventando presidente. My name's Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. Sono Donald Trump e sono il più grande imprenditore edile di New York. Possiedo edifici ovunque, agenzie di modelle, il concorso di Miss Universo, linee aeree, campi da golf, casinò e resort privati come il Mar-a-Lago, uno dei complessi più spettacolari del mondo. Ma non è sempre stato così facile. Circa 13 anni fa ho avuto seri problemi. Avevo miliardi di dollari di debito, ma ho combattuto e ho vinto. Ho usato la testa, le mie capacità di negoziazione e ho risolto tutto. Oggi la mia compagnia è più grande e più forte di quanto non sia mai stata e mi sto divertendo come mai prima. Ho padroneggiato l'arte della trattativa e ho trasformato il nome Trump in un brand di alta qualità. Donald Trump, oggi l'uomo d'affari più famoso nel mondo. Di lui si è parlato molto negli ultimi 40 anni, anche grazie al suo innegabile talento di rendere il suo cognome un vero e proprio brand. L'avete sentito anche dalle sue parole, perché di Trump si può dire tutto, ma è fuori da ogni dubbio che sia un campione di comunicazione, di marketing. È un personaggio controverso, dalle fortune alterne, ha vissuto crisi, ha sfiorato la bancarotta, è riuscito sempre a risollevare i propri affari fino a diventare uno degli uomini più ricchi del pianeta, con un patrimonio che si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi di dollari. Affari peraltro spesso al limite, ma proprio al limite della legalità, gestiti anche con amicizie pericolose. Ma soldi e business a parte, lui è stato capace di conquistare la nomination repubblicana battendo candidati più accreditati e nati in mezzo alla politica, smentendo quelle previsioni dei giornali americani che non gli davano alcuna chance. Molti direttori di quotidiani in questo momento hanno ammesso di averlo sottovalutato e hanno fatto un mea culpa. Partiamo proprio da qui, dalla candidatura alla nomination repubblicana. Mentre giornali e avversari sottolineavano l'inadeguatezza, la rozzezza, le idee povere, al limite anche del razzismo, lui ha attaccato, ha insultato e stato dopo stato si è conquistato le primarie. Come è stato possibile? We need somebody that can take the brand. Abbiamo bisogno di qualcuno che sappia prendere il simbolo degli Stati Uniti e lo faccia ritornare grande. Abbiamo bisogno di qualcuno che prenda questo paese e lo renda grande di nuovo nel vero senso della parola. Noi possiamo farcela. E vi dirò, io amo la mia vita. Ho una famiglia meravigliosa. Mi dicono, papà, ti stai imbarcando in qualcosa di davvero difficile. Per tutta la vita ho sentito dire che una persona veramente di successo, ma anche qualcuno di modesto successo, non può correre per un incarico pubblico. Non può proprio succedere. Tuttavia, quella è la forma mentis necessaria per rendere di nuovo grande questo paese. Perciò, signore e signori, mi candido ufficialmente per la posizione di presidente degli Stati Uniti e renderemo la nostra nazione grande di nuovo. Our country great again. Aiuto. Questa è la storia recente del miliardario Donald Trump e della sua discesa in campo, e ovviamente tutti starete facendo un paragone con un altro miliardario italiano, con Berlusconi, che più di 20 anni fa è sceso in campo e nel bene e nel male, insomma, si è imposto nella scena politica italiana. Torneremo a parlarne più avanti di questa interconnessione tra il successo imprenditoriale e il successo politico. 14 giugno del 46, Donald John Trump Senior nasce nel quartiere Queens di New York. E la famiglia di immigrati di origine tedesca e i nonni paterni arrivano negli Stati Uniti. Padre di Donald, Fred Christ Trump, sarà il primo della famiglia a nascere sul suolo americano, 1905, un padre a cui lui deve tutto, non solo in milioni e milioni di dollari di eredità, ma soprattutto un senso spiccato per gli affari che lo porterà così lontano nella vita. Il settore del padre, quello immobiliare, che lo rende nel corso degli anni un facoltoso costruttore di New York, fa una vera e propria fortuna vendendo, affittando immobili a quella generazione di persone che nel secondo dopoguerra ha costruito il boom economico americano tra gli anni 50 e gli anni 60. Donald è il quarto di cinque figli, un po' viziato, senza la necessità di faticare, con un percorso scolastico altalenante. Nel 54, quando ha 13 anni, la famiglia percorrerà i ripari, lo iscrive a un'accademia militare. Sembra funzionare il tentativo di raddrizzarlo. L'ambiente rigido, militaresco, forse lo stimola, diventa il capitano della squadra di baseball, come nella migliore storia a stelle e strisce. È il 64, il giovane Donald è pronto a entrare nel mondo degli affari dalla porta principale, che poi è la società del padre. Il falco e il gabbiano. Oltre a raccontare una storia, qui c'è da provare a capire, perché stiamo parlando di Donald Trump, il miliardario, l'uomo dei mille affari, che in questo momento è candidato alla poltrona di presidente degli Stati Uniti, con l'opinione pubblica divisa tra chi ne esalta le capacità comunicative e imprenditoriali e chi lo liquida come persona che non ha conquistato nulla e che deve tutto alla fortuna accumulata dal padre. Quando si laurea faticosamente in economia e finanza nel 68, ha già in tasca circa 200.000 dollari e un milione di oggi. La metà li investe per diventare coproduttore di una commedia Broadway dal titolo Paris is Out. È il primo affare che lui tenta da solo ed è un flop tremendo che lo convince rapidamente a seguire una strada più canonica. Insomma, inizia a lavorare nella società di gestione di patrimoni immobiliari del padre. Vende e affitta appartamenti nelle zone più alla moda, da Brooklyn al Queens. E il suo primo progetto a fianco del padre è di successo, la riqualificazione di una zona residenziale fuori Cincinnati, in Ohio, lo Swinton Village. Porta il tasso di occupazione dal 34% al 100% in un solo anno. Chissà se l'ha chiamato lo Swinton Village 2. Ma gli affari in Ohio gli stanno stretti, perché insomma, lui pensa alla grande. Negli anni 70 si sposta a Manhattan, inizia a interessarsi alle grandi costruzioni, mette mano al vecchio Penn Central nel West Side, dove realizza il Grand Hyatt, conquista appalti pubblici a New York sfruttando la credibilità del padre, e dal 74 anche la cospicua eredità, perché il padre muore, lui continua a raccontare di essersi fatto da solo. Certo che 40 milioni di dollari ereditati in qualche modo ti aiutano quantomeno a partire bene. New York è la sua piazza preferita, ma da New York c'è un problema: che non si muove foglia senza l'ok di un'organizzazione molto fiorente, soprattutto in quegli anni, Cosa Nostra. Nel corso delle primarie, quest'anno alcuni avversari di Trump e alcuni giornali, ma senza molta convinzione, hanno ricordato al miliardario di come tra gli anni 70 e gli anni 80 abbia avuto relazioni con Cosa Nostra, in particolare con la mitica, se così si può dire, famiglia Gambino. Trump non è mai stato formalmente accusato di nulla, però è certo che ha lavorato con aziende controllate dalla mafia durante le sue ascese, le costruzioni della Trump Tower, il Trump Plaza. Insomma, di sicuro in quegli anni intanto compra del cemento dal boss della famiglia genovese Fat Tony Salerno, che controlla il mercato delle costruzioni, e Trump condivide con Salerno anche qualcos'altro, il discusso avvocato Roy Cohen. Sentiamo Wayne Barrett, autore di un libro sugli affari di Trump. Ci sono prove che confermano che Fat Tony Salerno incontrò Donald Trump nello studio di Roy Cohn, un fatto che sembra avere un incredibile senso logico, non solo perché conferma le mie fonti di quei tempi. Se si considera poi che lui ha costruito i più grandi edifici in cemento dei suoi tempi e che l'industria del cemento era controllata da Fat Tony Salerno, ecco che la cosa ha tutto il senso nel mondo. Beh, nella storia americana non è raro incontrare amicizie pericolose ai piani alti. Anche una famiglia importante come quella dei Kennedy aveva rapporti con i boss della mafia di Chicago, in particolare con Sam Giancana, amicizia che è costata molto sia a John che a Bob Kennedy. Ma nonostante questi precedenti, secondo il Washington Post, e cito testualmente, nella storia non ci sono mai stati altri candidati con rapporti così radicati e documentati con enti controllati dalla mafia. E lui in campagna elettorale si è difeso dicendo che non era al corrente dei legami di queste aziende con la mafia e comunque ha aggiunto che erano eccezionali nel portare il lavoro a termine. Anni 80, investimenti che spaziano fino ai casinò, ai grandi alberghi, operazioni aggressive, pericolose, con esposizioni finanziarie molto importanti. Nell'88 diventa il proprietario dello storico Hotel Plaza di New York, il suo gruppo si consolida come grande immobiliare del lusso. Tutti i rischi presi sul finire degli anni 80 vengono al pettine nell'89, con la recessione che getta Trump in gravi difficoltà finanziaria, una caduta che per molti è il preludio del suo fallimento. Trump is finished. Però lui invece non è il tipo da tirarsi indietro, rilancia, finanzia con dei cosiddetti bond spazzatura per $1 miliardo di interessi un faraonico progetto per lanciare il suo terzo casinò, il Taj Mahal. Questa bella isteria mi ricorda il 1963, quando ho seguito l'arrivo dei Beatles in America. Donald Trump ha fatto fare a Michael Jackson un tour privato nel suo spettacolo stravagante da $1.2 miliardi e noi c'eravamo a ogni passo che facevano. Così nel 91 il progetto è sul punto di fallire, lui cede la metà della proprietà agli obbligazionisti e si salva, però è costretto a ridimensionare il suo intero gruppo, cede il 49% del Trump Plaza Hotel a Citibank e perde del tutto il Trump Shuttle. Sembra una caduta da cui è difficile rialzarsi, ma non sarà così. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita piena di successi e di cadute di Donald Trump, il miliardario americano che l'8 novembre probabilmente contenderà ai democratici e probabilmente a Hillary Clinton la poltrona più importante del mondo, quella di presidente degli Stati Uniti. E stiamo cercando di capire, stiamo raccontando il suo passato e non troviamo nulla, non so, dal punto di vista della vita interiore, un viaggio, un libro letto, non si trova nulla. E invece, per dire, si trovano relazioni pericolose con Cosa Nostra americana negli anni 80, si trovano cadute e risalite tutte legate al potere economico e al potere del denaro, null'altro. E siamo arrivati ai primi anni 90 con un impero finanziario che esce con le ossa rotte dalla disastrosa impresa del Taj Mahal Casino, progetto faraonico. Insomma, il gruppo viene portato verso un forte ridimensionamento, ma lui è abituato agli affari spericolati, ai grandi rischi, alle cadute e si rialza in fretta, porta in borsa la sua Trump Hotels e Casino Resorts, investe nei paesi arabi, diventa comproprietario del Palm Trump International Hotel and Tower, che è un complesso gigantesco sull'isola centrale delle tre isole delle Palme di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Soprattutto allarga molto il suo campo di interesse, arriva all'energia, alla televisione, al wrestling e poi è il format che lo vede protagonista, The Apprentice. New York, la mia città, dove gli ingranaggi dell'economia mondiale non smettono mai di girare. Una metropoli di cemento con una forza pari a nessun'altra, che trascina il mondo degli affari. Manhattan è un posto duro. Quest'isola È una vera giungla. Se non fai attenzione, ti mastica e ti sputa. Ma se lavori duramente, puoi avere un grande successo. Io l'ho avuto. E come? Si tratta di un programma di discreto successo, un programma spietato nel quale un manager deve far fuori una serie di giovani aspiranti manager per trovarne uno. E il format funziona anche in Italia, dove il Trump italiano diventa Flavio Briatore. Una puntata a parte meriterebbe il rapporto molto controverso di Trump con le donne. Di certo, insomma, non si tratta di, come dire, di un galantuomo illuminato, almeno nelle sue dichiarazioni. E poi siamo al terzo matrimonio, il primo quello con Ivana Trump, con il divorzio mega super miliardario, il secondo con Marla, la terza moglie Melania, 46 anni, quindi la più giovane, e da queste donne ha avuto fino ad oggi 5 figli. Poi negli ultimi anni comincia a distrarsi dai suoi affari e mi ricorda Berlusconi quando a domanda rispose: a Roma voterei Fini e non Rutelli. Anche qui Trump si presenta al mondo politico con una dichiarazione che fu quella al senatore repubblicano John McCain, poi sconfitto da Obama. E i media americani ne avevano già ipotizzato la candidatura per il Partito della Riforma nel 2000. Sta di fatto che nelle presidenziali che vedono opposto Obama e McCain, Trump fa parte di quel gruppo di persone cosiddetti birthers, che sostengono l'ineleggibilità di Obama perché dicono che è nato in Kenya, anche se lui continua a ripetere di essere nato a Honolulu, quindi nelle Hawaii, quindi in territorio americano. Trump batte su quel chiodo in ogni occasione, anche a costo di farsi prendere un po' in giro da David Letterman in televisione. I think he probably was born where he says he was born. Molto probabilmente è nato dove dice di essere nato. La parola probabilmente non è positiva. Potrebbe essere nato lì e forse è così. Non puoi dire con certezza che sia nato qui perché non è negli archivi degli ospedali. No records in a hospital. You know, little. How long would it take you to get a hold of your birth? Quanto ci metteresti a trovare il tuo certificato di nascita? Circa un'ora. È il tempo di andare e tornare dalla quinta strada. Ce l'hai in ufficio? Sì, è lì. Io ci metterei 6 mesi. Non so dov'è. L'ho perso durante il primo trasloco. Cara, dov'è il mio certificato di nascita? C'è l'FBI. The FBI is here. È una questione che dura anni anche dopo l'elezione, finché la Casa Bianca pubblica nel 2011 la foto del certificato di nascita originale del presidente che ne conferma la cittadinanza americana. Dopo una smentita nel 2012, il 16 giugno del 2015, Trump decide di fare il grande passo e si candida alla nomination repubblicana per le elezioni del 2016. I know the best people. Conosco la gente migliore e la mia campagna è interamente autofinanziata, perciò non ho bisogno di donatori o persone con interessi particolari e lobby. Non mi serve coinvolgerli. And lobbyists. I don't have to bring them in. Poi in realtà adesso sta cercando i finanziamenti per cercare di pareggiare i costi enormi della sua campagna elettorale, campagna che è andata bene, ha sbaragliato una concorrenza agguerrita in campo repubblicano e in Italia forse diremmo che ha cavalcato il voto di protesta. Lui è aggressivo, è al limite degli insulti con gli avversari, è veramente rozzo, però evidentemente è anche efficace per un popolo grossolano e credulone come quello americano, è efficace nell'esprimere la propria posizione su tanti temi. Fa venire un po' la pelle d'oca sentendo delle dichiarazioni su temi importanti ridotti a battute, come per esempio il tema del riscaldamento globale. Il concetto di riscaldamento globale è stato creato da e per i cinesi per far sì che la produzione degli Stati Uniti non sia competitiva. A New York nevica e si gela. Noi abbiamo bisogno del riscaldamento globale. Ecco, forse un'analisi un attimo più accurata sarebbe stata più adatta, insomma, a un candidato alla presidenza americana. Ma Trump è così, è proprio un meraviglioso, improvvisatissimo uomo con i capelli strani. La corsa per la nomination l'ha vinta lui, ha spaccato il Partito Repubblicano, ha sorpreso i giornali politici americani che lo hanno sottovalutato e invece quando si parla di America diciamo che il fondo ancora non lo si vede. Del futuro Trump vogliamo parlare con un vero esperto di cose americane, l'inviato a New York del Sole 24 Ore, Mario Platero. Buongiorno, Mario, che tra l'altro conduce anche America 24, sempre qui da Radio 24. Buongiorno Mario. Buongiorno, buongiorno Enrico, eccoci. Allora, stiamo raccontando, e più che altro stiamo cercando di capire come è potuta nascere questa infatuazione dell'America nei confronti di questo uomo, di Donald Trump, che peraltro un team di esperti dell'Economist ha definito tra i 10 peggiori rischi per la stabilità mondiale. Ecco, per cui la domanda prima è: ma perché un uomo come Trump ha così credito all'interno della società americana? Guarda, perché c'è una generale sensazione di scontentezza. Sì. E devo dire che credo che in qualche modo l'America stia vivendo oggi la coda di quello che noi in Europa viviamo ormai da alcuni anni, perché personaggi di protesta, tra virgolette, contro la politica vecchio certo. stampo, li abbiamo anche in Europa, abbiamo visto il populismo recentissimamente in Ungheria, in Austria, ma soprattutto in Italia, col Movimento 5 Stelle da una parte e con certo. Salvini dall'altra, tutto sommato. Allora in America questa cosa non c'era. Trump in effetti è un personaggio che preoccupa, perché ma non è veramente basso? Non è veramente basso di livello lui, proprio nel parlare, cioè le sue dichiarazioni, tipo quella "noi abbiamo bisogno del riscaldamento globale perché a New York si gela", cioè non è proprio sì. di basso livello culturale. È di bassissimo livello culturale, ma è proprio questo che oggi la gente vuole. La gente si è stufata del politically correct, della correttezza politica. Tutti devono dire le cose in un certo modo. Se vuoi, questo pendolo della correttezza politica è arrivato a certi estremi, per cui tutti sono molto preoccupati da quello che dicono, che non dicono. Se una persona dice una parola di più in ufficio viene fatta causa e si deve rimborsare perché un giudice, capisci? Quindi c'è un po' questa atmosfera della politically correctness. Però direi che Trump molti lo hanno sottovalutato, a partire da tutti i commentatori certo. americani, a partire dall'Economist, a partire da tutti coloro che non sbagliato? Hanno capito. Hanno sbagliato perché si sono fermati alla superficie. L'uomo è un volgarone, diciamo, certo. è un materialista, è uno che fa delle battute un po' grezze, quindi c'era questo atteggiamento così di guardarlo un po' dall'alto in basso. Ebbene, questo signore ha sbaragliato tutto, perché ha battuto 16 concorrenti, ha dimostrato di essere il più forte, è prontissimo dal punto di vista del dibattito, non ha peli sulla lingua e mette a tacere i suoi concorrenti con una battuta, vince in sostanza, vince, e alla gente piace vedere che una persona riesca a vincere, quindi certo. se quello vince gli danno il loro appoggio. Per cui la mia impressione è che lui sia uno molto intelligente. Parlavo con una persona che l'ha conosciuto l'altro giorno, mi diceva: guarda, ha gli occhietti vispi mobili, in continuazione allerta, capisce qualunque cosa ed è prontissimo, quindi è un uomo molto svelto, molto intelligente, molto pronto. Non ha una preparazione politica, però è questo che in qualche modo la gente, o almeno i repubblicani che hanno votato per lui, hanno certo. dimostrato di volere. Adesso dobbiamo chiederci se arriverà anche a convincere i democratici. Esatto, ma soprattutto dobbiamo chiederci, perché poi insomma il peso dell'America nel mondo è enorme, se Trump diventasse davvero presidente, noi che già abbiamo avuto paura per esempio delle presidenze alla Bush, le presidenze decisioniste un po' guerrafondaie, cosa succederebbe con un Trump al vertice? Allora guarda, io credo che Trump sia un pragmatico. Se dovesse arrivare alla presidenza, alla fine lui si circonderà sicuramente di persone competenti. Certo. È vero che lui ha una sua piattaforma, però la sua non è una piattaforma guerrafondaia, è una piattaforma che risale a un vecchio movimento del Partito Repubblicano di molti, molti decenni sì. fa, che era un po' più nazionalista, un po' più isolazionista. L'America è grande, chiudiamo i nostri confini, non interveniamo nel mondo, quindi semmai lui non vuole fare le guerre, vuole riportare i soldati americani all'interno del paese, chiederà che per l'alleanza NATO ci sia un peso maggiore per esempio da parte dei paesi membri, quindi una serie di tematiche sono già aperte. I problemi sono che lui vuole chiudere sul piano commerciale senza rendersi conto che questo creerebbe veramente delle catastrofi, e soprattutto preoccupa questo suo atteggiamento di discriminazione nei confronti dei messicani, nei confronti dei musulmani. Vorrei aggiungerti però una cosa. Ha parlato Barack Obama, ha fatto un discorso molto importante a una cerimonia di laurea a questa università americana Rogers, che è qui nel New Jersey, e ha fatto un discorso, devo dire, molto importante, perché per la prima volta è intervenuto a gamba tesa nel dibattito politico, non ha mai menzionato il nome di Obama, il nome di Trump, scusami, però ha menzionato tutte le tematiche di Trump e ha affrontato un po' le cose di cui tu parlavi. E allora a un certo punto su un tema, per esempio, ha detto non possiamo erigere i muri quando abbiamo la globalizzazione che andrà, la interconnection, l'interconnessione che andrà rafforzandosi, non possiamo isolarci, eccetera. Però su un punto in particolare, questo che tu citavi, quello dell'ignoranza, è intervenuto e ha detto attenzione, perché qui si sta facendo molta confusione tra il dire che una persona che ha studiato, che è preparata, che fa le cose seriamente, che conosce i dossier, che si occupa delle cose e cerca di negoziare, è un elitista. E lui dice questo non è questione di elite, non sono degli elitisti, non sono dei politici professionisti, sono delle persone serie, come erano seri e pieni di grande cultura i nostri padri fondatori. Certo. I nostri padri fondatori erano dei grandi intellettuali e oggi essere intellettuali, dice, significa essere al servizio del paese nel modo migliore, non significa necessariamente essere di elitisti. Ecco, trovo che abbia dato dei messaggi con cui forse Trump avrà qualche difficoltà, quindi vedremo se Obama riuscirà a frenare questo fenomeno Trump. Grazie Mario Platero, sei stato preziosissimo. Grazie, preziosimo. Buon proseguimento in America. Good luck. Grazie, ciao, ciao. E quindi noi non sappiamo come finirà la storia di Donald Trump, se avrà altre impennate, se volerà in alto o se precipiterà, perché personaggi così a volte precipitano e fanno anche rumore quando cadono, oppure toccherà il punto più alto e entrerà da inquilino alla Casa Bianca, un'eventualità che molti auspicano, per altri sarebbe un vero e proprio incubo. Roger Waters, per esempio, che è uno che non le manda a dire, è uno che conduce in prima persona le sue battaglie, dice che Trump incarna perfettamente la somma di tutti i difetti degli americani, e io non me ne intendo come lui, ma vista da fuori, insomma, è veramente, come dire, una deriva molto preoccupante per un paese che già è preoccupante di suo. Persone che nella loro vita hanno saputo dare colpi d'ala, hanno volato in alto, magari aiutati, magari spinti da qualche cognome alla Giancane o alla Gambino, ma sono volati in alto, persone che in qualche modo hanno la possibilità di cambiare la storia. Alcuni la cambiano in meglio, molti altri la cambiano in peggio. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi nei miei, nei nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani.